È come alzarsi la mattina, guardarsi allo specchio, lanciarci un sasso e quando si rompe dai vetri che ne rimangono, provare a metterli insieme per scriverci una canzone. L'eleganza di stare in galera per Aristide era quella. Col vestito eternamente verde appoggiato alla parete, la sigaretta in mano. E quante volte avrebbe voluto ancora quelle sensazioni folli e voglia di novità anche stamani per il mio piccolo cervello. Voglia di novità anche stamani per i nostri piccoli cervelli. Arancione, ero arancione, fasce viola che mi dipanavano il cervello. Voglia di novità anche stamani per il mio piccolo cervello. L'eleganza di stare in galera per Aristide era quella. Col vestito eternamente verde appoggiato alla parete, la sigaretta in e voglia di novità anche stamani per il mio piccolo cervello. Voglia di novità anche stamani per i nostri piccoli cervelli. E come un Leonardo, o come uno qualunque degli uomini veri, come fosse un po' tutti noi, come Leonardo, a cui si era semplificato il cervello.